颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏1998年在北京太庙演出的普契尼的歌剧《图兰朵》的实况录音，由托祖拉、拉林、富利托利等演唱，祖宾梅塔指挥意大利佛罗伦萨节日歌剧院演出，张艺谋导演。 Senza regno e fuggente, o Gira. che fai? Non senti il suo profumo nell'aria, nell'anima, perdi. Io soffro, padre, soffro. Ma lo stringi a me, più parlagli tu. Qui salvezza non c'è. Prendi nella tua mano la sua mano. Signore, ti amo, tu. La vita c'è laggiù. Questa è la vita, padre. La vita c'è laggiù. Io soffro, padre, soffro. Mi salvezza la vita, padre, qui. Curandat, curandat, curandat. Thank you. notte senza lumicino. Ora nero un cammino son più chiare delle nimi di Turandot. Ferro bronzo muro roccia, ostinata tua capoccia, son venturi delle nimi di Turandot. Dunque fa saluta a tutti, barca i monti dalle flutti, dalla larga dagli nimi di Turandot. Thank you. dice per le nozze e se gli perde e se per gli vento io preparo le nozze lì alle esequie e rosse lanterne di festa e bianche lanterne di lutto gli incensi e le offerte gli incensi e le offerte volete di fare la donna ci mostrate di preparare intimi lo stampante nel fatto di panzi che cantano di panzi che gemono e tutto quanto il resto secondo il rito minuzioso minuzioso infinito Tutto cinto di La pace ridà, niente chiamate di venire. Udite trombe, alto che pace, ma inizia la cerimonia. Andiamo a poterci nel desiderio splizio. Grrrr.

fecias un ricordo, fosco.